Un saluto a tutte e a tutti, questa è Oxygen, in voce con voi Amptech. Ho aperto con un estratto dal prossimo lavoro di Italtech per la Planet Moon Records, un album ancora in uscita di cui l'etichetta ha rilasciato due singoli. Quello che abbiamo ascoltato si chiama Kill Switch, l'album si chiamerà Mind Abandon, ma Planet Moon sta per rilasciare un altro lavoro che si chiamerà Tessares, firmato da DGOHN, che è il nickname di John Canane, un artista britannico, appunto prodotto da Planet Moon. E ci ascoltiamo, già sotto la mia voce, il singolo che preannuncia anche questo album. You're listening to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. E vi ricordo, siete all'ascolto di Oxygen in compagnia di Amptech. Abbiamo ascoltato due dei singoli che la Planet Moo Records, l'etichetta di Mike Paradinas, una delle label più interessanti degli ultimi anni, se non altro per il tentativo anche di ricercare nuove tendenze all'interno della musica elettronica. E questo che abbiamo ascoltato è la traccia che anticipa Tessares, il nuovo lavoro di DJO e Chen, ovvero John Canane. E andiamo avanti con il nuovo lavoro di una produttrice che si chiama Kyla Painter, anch'essa britannica. Il nuovo lavoro si chiama Tectonic Particles. For your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is Oxygen. questa era Kyla Painter dal nuovo lavoro che si chiama Tectonic Particles. Andiamo avanti con un'altra novità, spostandoci proprio di atmosfere, perché stiamo parlando della Anzen Records, un'etichetta storica del panorama elettronico industriale. E è uscito da pochissimi giorni il nuovo lavoro di uno degli artisti storici che pubblica i suoi dischi per Anzen. Si tratta di Flint Glass, il lavoro è intitolato The Shadow of Torturer. Listen to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. questo era Flint Glass del nuovo lavoro pubblicato da Anzen Records, quindi atmosfere decisamente cupe, scure, industriali come Anzen ci ha abituati. Ma andiamo avanti con un produttore che proviene da New York, che si chiama Aspetak, che sta facendo uscire vari lavori in successione, e noi ci ascoltiamo un estratto da Sense of the Substrate, un nuovo, un extended play con 4 tracce, dal quale ascoltiamo la traccia chiamata Contour Harmonics. You're listening to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. E vi ricordo che siete all'ascolto di Oxygen in compagnia di Amptech e dopo Aspetac. Siamo tornati in Gran Bretagna con un altro progetto storico dell'elettronica inglese, ovvero Boards of Canada, che ha rilasciato un singolo che fa preludere a un album, un brano, come avete ascoltato, molto ambientale, che si chiama Tape 05. Ma restiamo nelle isole britanniche con Psylob, un produttore storico della scena degli anni 90, l'abbiamo conosciuto su Reflex Records, assente da vari anni anche dalla scena. Un estratto dal uno dei due extended play che ha pubblicato nelle ultime settimane. is Oxygen. E questo era Psylob dal lavoro pubblicato da qualche settimana che si chiama Show Us Another World Is Possible. Restiamo nel perimetro degli artisti storici della scena inglese con Tom Jenkinson, che praticamente tutti conoscono come Squarepusher, che come ormai avete potuto ascoltare ha rilasciato un nuovo lavoro che si chiama Kammer Concert, un disco fortemente influenzato dalla musica sperimentale, quindi abbastanza complesso e spigoloso, e ascoltiamo una delle tracce forse più digeribili, che è K2 Central, Squarepusher. Mm-hmm. questo era Square Pusher, da questo disco quasi zappiano, malgrado emergano sempre influenze del funk jazz che ama particolarmente Tom Jenkins, essendo anche un grande bassista, come potete ascoltare anche in questa traccia che si chiamava K2 Central. Rimaniamo nel perimetro della scena britannica con un'altra figura storica, si tratta di TMX Crew. Crew qui a Oxygen, ovvero Edward Upton, una figura storica della scena inglese, tra l'altro lavorato anche con molte altre sigle. Il lavoro, l'album 2026, si chiama No Way to Control It. DMX Crew, vi ricordo che potete ascoltare i podcast di questa trasmissione sul sito www.musicamachina.com. Verranno pubblicati qualche giorno dopo la trasmissione in diretta, ma andiamo avanti con un produttore che viene direttamente dalla Florida, Travis Day Johnson. Si fa chiamare con il nome di un gioco che si chiama appunto Date with Death. For your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. E quello che abbiamo ascoltato era Date With That da un EP che si chiama NNN, che è stato rilasciato sulle piattaforme da pochissimi giorni, e anche Daniel Lopatin ha rilasciato un altro brano sulle piattaforme inedito. Si chiama Dim Stars e chiaramente la sigla che usa di riconoscimento è One Trick Point Neighbor. Questo era Dim Stars di One Trick Point Neighbor, uno degli artisti emergenti della scena britannica, normalmente pubblica i suoi lavori su Warp Records. Andiamo avanti invece con una release della Pan Records che vede la presenza di un'artista italiana. Si tratta di Valentina Magaletti, che ha realizzato insieme ad Upsemi un lavoro a quattro mani. Thank you.

E questo è sempre Oxygen, dopo Absemi con Valentina Magaletti, un estratto da questo album che si chiama Seismo. Siamo passati senza soluzione di continuità, mixando i due brani, a un altro artista. Si tratta di Boom Orange, un autore che viene da Bristol, e il suo lavoro si intitola Angel by Milo. Ma passiamo a un'altra novità, questa volta targata Emra Grid, un alias di Sean Pinheiro, musicista originario di Lufkin in Texas. Il lavoro da cui ascolteremo un estratto è Eleven Fins. for your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is Oxygen. Thank you. e vi ricordo che siete all'ascolto di Oxygen dalle frequenze di Samarcanda Digital Network. Vi ricordo il nostro sito www.radiosamarcanda.it e quello su cui potete trovare i podcast e materiali anche collaterali a trasmissione in diretta, www.musicamachina.com. dopo Emra Grid andiamo avanti con un altro personaggio che conosciamo bene anche per le sue divagazioni glitch insieme ad Alvanoto e ad altri artisti nord europei. Si tratta di Vladislav Delay, che pubblica alcuni lavori anche con un quintetto che si chiama appunto Vladislav Delay Quintet. questo era il Vladislav Delay Quintet, un'operazione abbastanza sperimentale che questo musicista nord-europeo sta alimentando già da alcuni anni, e questo è un brano che prelude al nuovo album. Ma andiamo avanti con Legoveld, che ci porta in territori electro, e Legoveld ha appena pubblicato un nuovo extended play che si chiama Netherworld Sonomosis. Legoveld. Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. E questo è Lego Belt, nuovo extended play che si chiama Netherworld Sonomosis. Andiamo avanti con la stessa tendenza, questa volta da un nome romano, una delle figure più importanti della scena elettronica italiana, Marco Passarani, dal nuovo album Analog Fingerprints. Marco Passarani. Questo era Marco Passarani da Analog Fingerprints volume 0, ma andiamo avanti con uno dei padri dell'elettro mondiale. Si tratta di Der Zyklus, il singolo che si chiama Fruit Matrix. We'll be right back. to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. Questo era Der Zyklus qui a Oxygen. Proseguiamo con il nuovo singolo Dust on My Soul di Marco Bailey. They say that God has no place here. They say there's nothing but fear here. We say that we'll go to hell for our sins, for our lives, for our health. God himself said he was done with us. E questo è sempre Oxygen in voce con voi, Amtech dopo Marco Bailey. È già partita la traccia Pole Position di un altro nome fondamentale della scena di Detroit, si tratta di Robert Hood, già sotto la mia voce. Oxygen. vi ricordo che state sempre ascoltando Oxygen, quello che abbiamo ascoltato poco fa era il lavoro rilasciato da Robert Hood che sta disseminando il web di singoli, e adesso un altro singolo che è uscito qualche giorno fa, Dom Carlo, un artista direttamente da Bristol. La traccia si chiama Terrace. Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. The volume.